la bella raga, bella d'Assaro. XXX, bine che e bine, bella Assaro. E la Rivera parla chiaro. XXX, primo pezzo della serie. Yeah, è un attimo, un attimo. È così che va, come? È così che va, come? E bine, ho la sindrome del fatti cazzi tuoi. In pratica non voglio gente che si ammanica. Non ti ho invitato, o forse chiamato. Beh, tranquillo, non pensare abbia trovato occupato. Pure l'abbia pescato, rimandato più tardi. Non c'è pericolo, non sei nei miei programmi. I miei panni sporchi, grammi di attrezzi li ho chiusi così. Mi nomini tra gli anonimi. Sono il ragazzo con la dinamite. E se esplodo, non vi lamentate poi per le ferite. XXX, storie non gradite. Senza trama, c'è trauma tra le vostre preferite. Ho fatto i conti coi miei limiti. Parecchi di fan negli anni dei Black Street e Dino Digiti. Quando li vedi tutti simili a zeri, verità e realtà con le droghe che assimili. È un attimo, in un attimo è tutto perso. Un attimo, e te l'ho scritto del resto. È un attimo, tutto quello che chiedo adesso. È un attimo, come quello che mi è concesso. È un attimo, in un attimo è tutto perso. Un attimo, e te l'ho scritto del resto. È un attimo, tutto quello che chiedo adesso. È un attimo, come quello che mi è concesso. Faccio pensieri a tripla X, teste a tripla X. In un attimo e sono pronto per il fit. Mi lascio trasportare in situazioni strane. E non ci vuole un cazzo effetto collaterale. Mi muovo a passi svelti in questo buco di città. E in un attimo ne attraverso la metà. E più vedo facce strane, più vorrei andare altrove. La vita va a puttane, ci mandare chissà dove. Ci vuole la scintilla, la scintilla, che ma girano sostanze ed effetto camomilla. Sempre in fotta per sta roba ma nessuno si ripiglia. Mi risveglio la mattina in compagnia della mia scia. È un attimo, in un attimo è tutto perso. Un attimo, e te l'ho scritto del resto. È un attimo, tutto quello che chiedo adesso. È un attimo, come quello che mi è concesso. È un attimo, in un attimo è tutto perso. Un attimo, e te l'ho scritto del resto. È un attimo, tutto quello che chiedo adesso. È un attimo, come quello che mi è concesso. XXX, e ci vuole un attimo. XXX, yeah. Dalla Riviera ci vuole un attimo. Sì, per scoppiarsi. Minello, c'hai un attimo? Giusto un attimo. XXX, ragazzi, yeah. Ed è così che va. Come va? Yeah. Su, su. Io fuori dopo da cena. Lo dice sempre dopo da cena. È una puttana sto dopo da cena.